Per consolarmi del suo silenzio, rilessi la lettera di Madame Goupy. Ma era priva di calore, perché se l'aristocrazia ha certe formule che sembrano steccati, fra l'una e l'altra, fra il signore dell'inizio e la distinta considerazione della fine, grida di gioia, d'ammirazione possono spuntare come fiori e spargere a fasci da sopra lo steccato il loro profumo adorante. Ma il convenzionalismo borghese rinchiude anche l'interno delle lettere in una rete di «il vostro ben legittimo successo» o al massimo «il vostro bel successo», coniate fedeli all'educazione ricevuta e piene di riserbo nella loro camicetta inappuntabile, credono di dar fondo al dolore e all'entusiasmo se scrivono «i miei pensieri più cari». «Mamma si unisce a me» è un superlativo di cui raramente si viene gratificati. Ricevetti, oltre a quella di Madame Goupy, un'altra lettera, ma la firma Saint-Nilon mi era sconosciuta. Era una scrittura popolare, un linguaggio incantevole. Fui desolato di non poter scoprire chi mi avesse scritto. La mattina dopo fui felice che Bergotte avesse tanto ammirato il mio articolo e non fosse riuscito a non provarne invidia. Ma un istante dopo la mia gioia svanì. In effetti, Bergotte non mi aveva per niente scritto. Mi ero soltanto chiesto se l'articolo gli sarebbe piaciuto, temendo di no. Alla domanda che ponevo a me stesso, Madame de Forcheville aveva risposto che l'ammirava moltissimo, che gli sembrava l'articolo di un grande scrittore. Ma me l'aveva detto mentre dormivo. Era un sogno. Quasi tutti, alle domande che poniamo a noi stessi, rispondono con affermazioni complesse, messe in scena, con parecchi personaggi, ma prive di domani. Quanto a Mademoiselle de Forcheville, non potevo impedirmi di pensare a lei con desolazione. Ma come? Figlia di Swann, cui sarebbe tanto piaciuto vederla in casa Guermont, che i Guermont avevano negato al loro grande amico di ricevere. Costoro l'avevano poi spontaneamente cercata. Essendo passato il tempo, che rinnova per noi, che infonde un'altra personalità sulla base di ciò che si dice di loro, agli esseri che non vediamo da molto tempo, da quando noi stessi ci siamo fatti una pelle nuova e abbiamo preso nuovi gusti. Ma quando un tempo Swann diceva a questa figlia, stringendola a sé e baciandola: «È bello, tesoro mio, avere una figlia come te. Un giorno, quando non ci sarò più, se si parlerà ancora del tuo povero papà, sarà soltanto con te e a causa tua». Swann, riponendo così per dopo la morte in sua figlia una spaurita e ansiosa speranza di sopravvivenza, non si ingannava meno del vecchio banchiere che, avendo fatto testamento a favore di una piccola ballerina che mantiene e che si comporta benissimo, si dice che lei, certo, lo considera solo un grande amico, ma rimarrà fedele alla sua memoria. Lei si comportava benissimo, facendo piedino sotto il tavolo agli amici del vecchio banchiere che le piacevano, ma tutto in gran segreto, sotto eccellenti apparenze. Porterà il lutto del brav'uomo, se ne sentirà sbarazzata, si godrà non solo il denaro liquido, ma le proprietà, le automobili che le ha lasciate, farà cancellare ovunque le iniziali del vecchio proprietario di cui si vergogna un po', e al godimento del dono non associerà mai il rimpianto del donatore. Le illusioni dell'amore paterno non sono minori di queste. Molte figlie considerano il padre solo come il vecchio che lascia loro il suo patrimonio. Lungi dall'essere un'occasione perché si parlasse ancora qualche volta di suo padre, la presenza di Gilberte in un salotto impediva di cogliere quelle sempre più rare che avrebbero consentito di farlo. Anche a proposito delle parole che aveva dette, degli oggetti che aveva regalati, si prese l'abitudine di non nominarlo più. E colei che avrebbe dovuto rinfrescare, se non perpetuare, la sua memoria, fu quella che affrettò e portò a compimento l'opera della morte e dell'oblio. E non solo nei confronti di Swann Gilbert portava a compimento l'opera dell'oblio. L'aveva accelerata per me, anche nei confronti di Albertine. Sotto l'azione del desiderio, come conseguenza del desiderio di felicità eccitato in me da Gilbert durante le ore in cui l'avevo creduta un'altra, un certo numero di sofferenze, di preoccupazioni dolorose che ancora poco tempo prima ossessionavano il mio pensiero, mi avevano abbandonato, trascinando con sé tutto un blocco, da molto tempo probabilmente sgretolato e precario, di ricordi relativi ad Albertine. Se, infatti, molti dei ricordi legati alla sua persona avevano dapprima contribuito a mantenere in me il dolore per la sua morte, tale dolore era valso, per contro, a fissare i ricordi. Così, la modificazione del mio stato sentimentale, preparata certo a lungo, oscuramente, giorno dopo giorno, dalle continue disgregazioni dell'oblio, ma realizzata bruscamente nel loro insieme, mi diede la stessa impressione che ricordo d'aver provata allora per la prima volta di vuoto, di soppressione di tutta una porzione delle proprie associazioni di idee, che prova un uomo in cui, a causa della rottura di un'arteria cerebrale da tempo logora, sia abolita e paralizzata tutta una parte della memoria. Non amavo più Albertine. Tutt'al più certi giorni in cui il tempo, modificandosi, risvegliando la nostra sensibilità, ci rimette in rapporto con il reale, mi sentivo crudelmente triste se pensavo a lei. Soffrivo d'un amore che non esisteva più. Allo stesso modo i mutilati, con certi cambiamenti di tempo, sentono male alla gamba che non hanno più. La scomparsa della mia sofferenza e di tutto ciò che aveva comportato mi lasciava diminuito, come fa spesso il guarire d'una malattia che occupava molto spazio nella nostra vita. Probabilmente, se l'amore non è eterno, è perché i ricordi non rimangono veri per sempre, e perché la vita è fatta di un perpetuo rinnovarsi delle cellule. Ma questo rinnovamento è pur sempre ritardato, nel caso dei ricordi, dall'attenzione che ferma, che fissa per un momento ciò che deve cambiare. E poiché il dolore, così come il desiderio delle donne, lo si ingrandisce pensandoci, avere molto da fare renderebbe più facile tanto la castità quanto l'oblio. Per una diversa reazione, pur restando vero che l'oblio, benché fosse stata la distrazione, il desiderio di Mademoiselle de Porcheville a rendermelo improvvisamente effettivo e sensibile, è introdotto progressivamente dal tempo, l'oblio non manca a sua volta di alterare profondamente la nozione del tempo. Ci sono errori ottici nel tempo, come ce ne sono nello spazio. Il persistere dentro di me d'una vecchia velleità di lavorare, di riparare al tempo perduto, di cambiare vita, o piuttosto di cominciare a vivere, mi dava l'illusione di essere sempre altrettanto giovane. Ma il ricordo di tutti gli avvenimenti che s'erano succeduti nella mia vita e anche di quelli che s'erano succeduti nel mio cuore, perché quando si cambia molto si è portati a credere di avere vissuto più a lungo, nel corso degli ultimi mesi dell'esistenza di Albertine me li aveva fatti sembrare molto più lunghi d'un anno. E adesso era questo oblio di tante cose che mi separava con degli spazi vuoti da avvenimenti affatto recenti, facendomeli apparire vecchi, perché avevo avuto, come si dice, il tempo di dimenticarli. Era questa sua frammentata, irregolare interpolazione nella mia memoria, come una spessa bruma sull'oceano che sopprime i punti di riferimento delle cose, a sconvolgere, a sconnettere il mio senso delle distanze nel tempo, qui restringendole, là dilatandole, e facendomi credere d'essere ora molto più lontano, ora molto più vicino alle cose di quanto non lo fosse in realtà. E poiché nei nuovi spazi, non ancora percorsi, che si stendevano davanti a me, non ci sarebbero state più tracce del mio amore per Albertina di quante ce ne fossero state, nei tempi perduti che avevo attraversati, del mio amore per la nonna, in una successione di periodi sotto ciascuno dei quali, dopo un certo intervallo, niente più sussisteva di quel che aveva retto il periodo precedente, la mia vita mi apparve come una cosa altrettanto priva del supporto di un io individuale identico e permanente, altrettanto inutile nel futuro non meno che lunga nel passato, qualcosa a cui la morte avrebbe potuto porre termine in un punto o in un altro senza minimamente concluderla, come quelle lezioni sulla storia di Francia che ai corsi di retorica si interrompono indifferentemente, secondo la fantasia dei programmi o dei professori, alla rivoluzione del 1830, a quella del 1848 o alla fine del Secondo Impero. La stanchezza e la tristezza che provai non nacquero forse tanto allora dall'avere amato inutilmente ciò che già dimenticavo, quanto dal cominciare a star bene con dei nuovi vivi, gente di mondo, semplici amici dei Guermont di per sé, così poco interessanti. Mi consolavo più facilmente forse del constatare come quella che avevo amata fosse ormai passato un certo tempo soltanto un pallido ricordo che del ritrovare in me quell'attività vana con cui perdiamo il nostro tempo a tappezzarci la vita ad una vegetazione umana vivace ma parassitaria che diventerà niente quando sarà morta, che è già ora estranea a tutto quanto abbiamo conosciuto e alla quale si sforza tuttavia di piacere la nostra senilità verbosa, malinconica e civettuola. Il nuovo essere che avrebbe sopportato facilmente di vivere senza Albertine aveva già fatto la sua comparsa in me, dal momento che, in casa di Madame de Guermont, avevo potuto parlare di lei con parole accorate, ma senza sofferenza profonda. Il possibile sopraggiungere di questi nuovi io, il cui nome sarebbe stato diverso dal precedente, mi aveva sempre spaventato a causa della loro indifferenza verso ciò che amavo. In altri tempi, a proposito di Gilbert, quando suo padre mi diceva che se fossi andato a vivere in Oceania non avrei più avuto voglia di tornare. Ultimamente, quando avevo letto con una tale stretta al cuore le memorie di un mediocre scrittore che, separato dalla vita da una donna adorata in gioventù, l'aveva incontrata da vecchio senza piacere, senza desiderio di rivederla. Ora, invece, quell'essere tanto temuto e tanto benefico che era semplicemente un io di ricambio, uno dei tanti che il destino tiene in serbo per noi e che nostro malgrado, senza dare ascolto alle nostre preghiere, più di un medico illuminato e proprio per questo autoritario, sostituisce con opportuno intervento a un io davvero troppo ferito, quell'essere mi portava, assieme all'oblio, una soppressione quasi completa della sofferenza, una possibilità di benessere. Questo ricambio, d'altronde, avviene di tanto in tanto, come l'usura e la rigenerazione dei tessuti. Ma noi ci facciamo caso solo se il vecchio io conteneva un grande dolore, un corpo estraneo e offensivo che ci meravigliamo di non trovare più, stupiti come siamo d'essere diventati qualcun altro. Un altro per cui la sofferenza del predecessore non è più che una sofferenza altrui, della quale possiamo parlare impietosendoci perché non la proviamo più. Essere passati per tante sofferenze ci è addirittura indifferente, dal momento che d'averle patite non abbiamo che un confuso ricordo. Allo stesso modo è possibile che di notte i nostri incubi siano spaventosi, ma al risveglio siamo un'altra persona, a cui importa ben poco che quella che l'ha preceduta abbia dovuto, dormendo, fuggire davanti a degli assassini. Questo io manteneva ancora, probabilmente, qualche contatto con il vecchio, allo stesso modo che un amico, pur essendo indifferente a un lutto, ne parla ai presenti con l'adeguata tristezza e di tanto in tanto va nella camera dove il vedovo, che l'ha incaricato di ricevere le visite invece sua, continua a far sentire i suoi singhiozzi. Io ancora non riuscivo a trattenerli quando, Per un istante ridiventavo il vecchio amico di Albertine. Ma quello in cui tendevo a passare per intero era un personaggio nuovo. Non è perché gli altri sono morti che il nostro affetto per loro si affievolisce, ma perché moriamo noi stessi. Al suo amico, Albertine, non aveva niente da rimproverare. Chi ne usurpava il nome non era che l'erede. Si può essere fedeli solo a ciò di cui ci si ricorda, e si ricorda solo ciò che si è conosciuto. Mentre cresceva all'ombra del vecchio, il mio nuovo io aveva sentito parlare spesso di Albertine. Tramite suo, attraverso i racconti che quello gli faceva, era convinto di conoscerla, gli era simpatica, l'amava, ma non era che una tenerezza di seconda mano. Un'altra persona nella quale l'opera dell'oblio si fece in quel periodo, per quanto concerneva Albertine, più rapida, consentendomi per contraccolpo di rendermi conto un po' più tardi di un nuovo progresso che la stessa opera aveva fatto dentro di me, ed è questo il mio ricordo d'una seconda tappa, prima dell'oblio definitivo, fu probabilmente André. In effetti, mi è quasi impossibile non attribuire all'oblio di Albertine come causa, se non unica, se non principale, quantomeno condizionante e necessaria, una conversazione che André ebbe con me circa 6 mesi dopo quella già riferita, e nel corso della quale le sue parole furono così diverse da ciò che m'aveva detto la prima volta. Ricordo che eravamo in camera mia, perché mi piaceva allora avere con lei dei semi-rapporti carnali, a causa di quel tanto di collettivo che il mio amore per le fanciulle della piccola banda aveva avuto all'inizio e stava adesso riprendendo, a lungo indiviso fra loro e solo per un momento, negli ultimi mesi che avevano preceduto e seguito la sua morte, associato unicamente alla persona di Albertine.